vai via leggera, ritornerai sugli occhi stanchi, ti poserai. E dove sei, dove sei? Cammino per le strade, dove sei, dove sei? Ma dove vuoi scappare? Voli via, ti prenderò. E allora sarà bellissimo. Proteggimi dal mio dolore e dalle parole. Dove sei, dove sei? Cammini per le strade. Dove sei, dove sei? Ma tu non puoi scappare. Voli via davanti a me. Il cielo sarà bellissimo. E ci sei, senza